Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Aziende che vanno all'estero. Di Alessandra Tedesco. Bentrovati a questa puntata speciale di Voci d'impresa, dedicata non a una storia, ma a un tema, quello dell'internazionalizzazione, che è diventato una parola d'ordine per le imprese grandi e piccole, soprattutto in questo periodo di crisi. Ne parliamo a seguito di un recente convegno dedicato a questo tema dal titolo PMI, come farsi comprare all'estero, la tua impronta all'export, organizzato da Comarc, di cui andiamo a proporvi alcuni interventi e alcune esperienze. Partiamo da una case history che viene dal mondo del lusso. Hermès è leader dal 1837 nella pelletteria, nella produzione di selle, nel tessile, nell'abbigliamento, nei profumi e anche nell'arredamento di elicotteri e aerei privati. L'azienda francese ha un responsabile acquisti arredo e accessori italiano. È Stefano Gallastroni che racconta la sua esperienza. Per essere comprati meglio c'è una parola magica per tutto questo, che è una parola abbastanza semplice. E la parola è qualità. Qualità che non vuol dire solo qualità di prodotto. Qualità è una parola che deve essere vissuta e gestita a 360 gradi. Innanzitutto la qualità etica. Cosa vuol dire qualità etica? Vuol dire essere a posto in tutto. Vuol dire che le aziende che vogliono lavorare con noi devono prendere tutti quei provvedimenti che occorre in materia di energia, di smaltimenti, eccetera, eccetera. Noi abbiamo delle dichiarazioni che chiediamo ai nostri fornitori, collaboratori di firmare, cose abbastanza semplici, in cui dichiarano da una parte che sono a posto da un punto di vista di questo tipo di cose, quindi di queste cose etiche, e dall'altra una dichiarazione di confidenzialità ovvia, perché noi andiamo con loro a studiare, a sviluppare quelli che sono dei prodotti che ancora, come tutti, chiaramente dovranno nascere, dovranno essere diffusi. L'altra qualità che noi richiediamo è la qualità del prodotto, ovviamente, perché Hermès ha sempre esigenza di avere un prodotto di eccellenza, quindi quello che è il top della qualità, che ovviamente noi sappiamo di pagare, perché altrimenti non verremmo in Italia o in altri paesi europei, dove il costo della manodopera incide pesantemente, però questo è quello che vuole Hermès. Fino adesso è stata una politica assolutamente vincente e chiaramente non abbiamo intenzione di fare cambiamenti da questo punto di vista. La terza qualità è la qualità del lavoro. Qualità del lavoro vuol dire che le aziende che lavorano con noi devono avere delle caratteristiche di come dire, etiche nei confronti dei propri dipendenti, quello che è la qualità del lavoro all'interno dell'azienda. Secondo Alberto Bombassei, a capo dell'azienda Brembo, ora più che in passato, nonostante la crisi, ci sono più possibilità di esportare. E questo perché sta cambiando il costo del lavoro. Se guardiamo 10-15 anni fa, il costo del lavoro in Europa, chiamiamo occidentale, era 100 e tutti i paesi dell'est europeo erano allora 25. Quindi voleva dire che il costo di un qualsiasi paese dell'est europeo era un quarto rispetto al nostro, a quello francese o a quello tedesco. E allora, se si guardava poi la Cina o l'India, era addirittura 2,5, quindi più di un quarantesimo rispetto al nostro. È chiaro che era molto facile per noi se si fosse prodotto là, ma soprattutto immagino al cinese che possa produrre con quei costi e possa quindi esportare i propri prodotti nei nostri paesi a dei costi estremamente più competitivi. Se guardiamo a distanza di 10 anni, oggi il rapporto è 140 sui paesi dell'est europeo, 25 sui paesi dell'estremo oriente, che da un lato è sempre una differenza estremamente forte, ma è un trend che va piano piano ad equilibrare i costi in generale, non è solo il costo del lavoro, però ecco, vuol dire come il mondo piano piano si equilibra nei vari costi. Il che vuol dire, se lo guardiamo da un pizzichino di ottimismo, è dire che oggi abbiamo molte più chance di quello che avevamo 10 anni fa. È chiaro che può darsi che se riusciamo a fare un prodotto un pochettino più evoluto, riusciamo, anche se il cinese di turno che starà pensando a come fregare ciascuno di voi, però avrà un prezzo che sicuramente è un pochettino più alto di quello che poteva fare 10 anni fa, quindi abbiamo più chance. Ma qual è il modo migliore per farsi comprare all'estero? In che modo il Made in Italy può risultare un prodotto appetibile a livello internazionale? Massimo Lensch, presidente di Comarc, società che offre consulenza alle aziende, spiega che cosa è importante per le piccole e medie imprese per organizzare l'export. Sicuramente l'innovazione tecnologica è un elemento che va di pari passo con l'internazionalizzazione. Fra le aziende che seguiamo, la gran parte delle aziende che internazionalizza bene riesce a fare innovazione perché si confronta continuamente con competitor globali, e chi fa innovazione tecnologica riesce ad avere maggiore successo sul mercato e riesce a vendere con maggiore marginalità, non c'è dubbio. Questa è l'esperienza concreta che viviamo tutti i giorni a fianco delle aziende che seguiamo. Un secondo aspetto è quello relativo alle reti d'impresa. La prima rete d'impresa progettata e coordinata da Comarc è stata quella della selezione abbigliamento bergamasco nel 1996. Devo dire che perché un'aggregazione di imprese finalizzata alla commercializzazione e all'internazionalizzazione funzioni, deve essere una rete d'impresa costruita sulla filiera produttiva, quindi verticale, oppure su imprese di beni complementari, quindi prodotti complementari fra loro e non assolutamente in concorrenza. Terzo aspetto perché un'aggregazione funzioni è sicuramente l'utilizzo di metodi e strumenti innovativi. Ci servono sostanzialmente azioni più proattive, quindi andare a cercarsi i partner commerciali, andare a cercarseli dove si vogliono e con le caratteristiche che devono avere. Usare strumenti innovativi. Oggi la tecnologia ci offre tecnologie di SEO, di SEM, parlo di azioni pull, di marketing, di remarketing. Utilizzare business plan snelli, banche dati innovative, ecco, quindi strumenti innovativi. Questo per finalizzare l'azione ad una copertura di mercato che sia veramente una copertura fatta come si deve, cioè sia per geograficamente per canale e per prodotto nel caso di aziende che hanno gamma di prodotti. Evitare un po' di più azioni passive, cioè abbandonare un po' la partecipazione alle fiere a prescindere dal prodotto. Mantengono la loro importanza, ma non per tutti i prodotti. Il passaparola, le missioni comuni. Quindi azioni di marketing più aggressive e più individualizzate. Ultimo punto perché l'aggregazione d'impresa finalizzata all'internazionalizzazione funzioni, e questo è l'errore più frequente, è quello di creare il gruppo non tanto perché appartenente a una determinata associazione di categoria, territorio, settore, ma creare il gruppo di imprese componenti l'aggregazione dal basso, quindi dal canale di distribuzione comune, perché questo è il sinonimo di medesimo rapporto qualità-prezzo, quindi solo così la rete riesce a rendere funzionali le sinergie del gruppo. Come abbiamo sentito spesso, per andare all'estero le aziende, soprattutto quelle piccole, costituiscono un consorzio, con l'idea di fondo che l'unione fa la forza. FederExport è uno di questi consorzi che fa da incubatore alle imprese che vogliono internazionalizzarsi. Stefano Scipioni, segretario generale di FederExport, racconta una strada seguita per entrare nel mercato americano. Nel nostro consorzio, un consorzio di imprese del Lazio, abbiamo un grosso numero di imprese che operano nel campo dei materiali lapidei, quindi travertini, pietre ornamentali, basalto, eccetera. Aziende che tutte esportavano, noi abbiamo tutte aziende che già esportavano ed esportavano forse il 30-35% del loro prodotto quando hanno deciso di iscriversi al consorzio. Quindi erano aziende già esportatrici che però nel mercato americano si confrontavano con un nuovo competitors che erano i turchi, che portavano materiali molto simili ai materiali italiani a prezzi bassi di quasi la metà. Quindi per alcuni anni queste aziende avevano fatto una guerra tra poveri cercando di buttare giù i prezzi, quindi svilendo il prodotto, e a questo punto ci siamo trovati nella necessità di fare un progetto che riqualificasse dal punto di vista di qualità produttiva queste aziende. Un progetto appunto, come dicevo, complesso, che non è di andare all'estero e incontrare gli importatori, non è andare all'estero e fare una fiera, è di incidere sui soggetti che negli Stati Uniti sono quelli che indicano quale prodotto deve essere inserito in un progetto, cioè gli architetti specifiers. Abbiamo fatto un accordo con ICE e il Ministero del Commercio con l'Estero, chiedendo non soldi, ma chiedendo a loro di lavorare bene e fare bene quello di cui noi avevamo bisogno, quindi una ricerca negli Stati Uniti per identificare nei principali studi di architetti quei soggetti che erano specializzati nei marmi e li prescrivevano nei progetti. Ne sono stati identificati circa 20, Abbiamo fatto un accordo con l'Associazione Americana degli Architetti, in modo tale che questi architetti potessero venire in Italia e loro in Italia valevano come formazione fatta dall'Associazione Americana degli Architetti. Abbiamo preso accordi con 4 università americane per fare dei corsi nell'ultimo anno di architettura e insegnare agli studenti come il marmo laziale poteva essere applicato al meglio nei loro progetti, e poi abbiamo portato qui in Italia. Quindi abbiamo agito sia sugli architetti che oggi stavano lavorando, sia sugli architetti che erano al quinto anno di studi presso le università americane. Oltre alle esperienze concrete, ci sono i consigli degli esperti, di chi studia le strategie di marketing in Italia e all'estero, come Paolo Preti, docente all'Università SDA Bocconi di Milano. La prima cosa da fare che io vedo è una cosa ovviamente un po' filosofica, ma in cui io credo molto, cioè guardare lontano. Anche in periodi come questi, chi si guarda in quanto imprenditore la punta delle scarpe è finito. È all'inizio della fine, sarà una lunga agonia, ma è l'inizio della fine. E guardate che questo guardare lontano, filosofico quanto volete, ha delle immediate conseguenze economiche, perché è stato accennato molto agli investimenti, alla ricerca, sono costi. E se uno guarda la punta delle scarpe, la prima cosa che fa è ridurre i costi. E fa bene a ridurre i costi ogni bravo imprenditore, ogni giorno, a raschiare il barile, perché questo è un modo per stare quotidianamente sul mercato. Ma chi affida a questa operazione una valenza strategica, chi si aspetta di essere qui fra 20 anni perché oggi riduce i costi, mi par di poter dire sempre provocatoriamente, non va lontano. Guardare il lungo periodo, che per un imprenditore di natura familiare è normale, perché l'aspirazione è quella di lasciare l'azienda a qualcun altro, della famiglia o meno, deve restare anche in piena crisi la prospettiva, il modo naturale per osservare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.